andiamo te mai che va con lo baba vole ma cana io se li vai tarasica o io papo ti baia papo ingaie i cambote ae mariwanga ae o mapoca ae Coyote.